Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E in questo intenso giovedì 5 ottobre concludiamo la nostra prima colazione in diretta con il Last Minute, sempre a tema musei, ma in questo caso per la musica, Museo Internazionale Biblioteca della Musica. L'intersezione con le nostre rubriche, i format mattutini, che a me piace assai, prevede questa volta un incontro con Jazz Live che domani dalle 11.30, anche con la voce di Piero Bittolo Bon, che è coinvolto direttamente in questo progetto, però al Torrione a Ferrara, avrà modo di raccontare in maniera più approfondita come avverrà e come avviene questo incontro. Intanto per questa sera a Bologna, la sede ve l'ho appena citata, Strada Maggiore 34, Museo e Biblioteca della Musica, ovviamente a Bologna. Lisa Mezzacappa, lei nonostante nome e cognome è americanissima e statunitense, per quanto riguarda Cosmic Comics, per quanto concerne la narrazione e i racconti di Italo Calvino nel centenario della nascita, in un nuovo sestetto che vede appunto tra i protagonisti Piero Bittolo Bon ai fiati e dell'elettronica, Nazareno Caputo al vibrafono, Giorgio Pacoric alle tastiere, Jordan Glenn alla batteria, che sarà protagonista invece domenica al Torrione, la frontwoman Lisa Mezzacappa al contrabbasso e alla composizione. Ci sarà anche motivo di video installazione con Charles Woodman. Ecco, questa narrazione dagli spassosi, anche lascivi e al tempo stesso emozionante e toccanti racconti di Italo Calvino con le cosmicomiche sulle origini dell'universo. Lisa Mezzacappa, proveniente dalla San Francisco Bay Area, quindi la West Coast, fino a noi, per quanto riguarda il Museo della Musica questa sera è alle ore 18 per essere più precisi, e per quanto riguarda poi invece l'ufficiale inizio al Torrione per la giornata di domani. E domani avremo Piero Bittolo Bon, che è all'interno della formazione che ho appena citato. Io ho selezionato un brano appunto da un live di Lisa Mezzacappa per dare colonna sonora a questo Last Minute, ve lo propongo, poi torniamo in diretta a breve sui 103.1 per questo intenso Breakfast Club. Cappa, contrabbassista, questa sera alle ore 18 al Museo e Biblioteca della Musica di Bologna in Strada Maggiore 34. Sarà anche domani, poi ne parleremo con Piero Bittolo Bonna all'interno della formazione del suo sestetto per quanto riguarda Jazz Live. Leader ispirato, come stiamo ascoltando, una pregevole contrabbassista e figura tra le più interessanti dell'intera West Coast. Porta una colonna sonora alle cosmiconiche, visto il centenario della nascita di Italo Calvino. E quanto cool jazz c'è qui, ma veramente tanto, che ha portato a sua volta una trasposizione nel linguaggio moderno. Questo è il nostro last minute all'interno di questa pienissima giornata e serata per quello che riguarda gli incontri, la musica, le esposizioni nella nostra città e non solo. Tra pochissimo i saluti. Mandiamo la sigla del last minute e poi ci ritroviamo per gli appuntamenti a colazione di domani. A tra poco. Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. L'orchestra che accompagnava gli artisti della Philadelphia Sound, The City of Brotherly Love. The Backstabber, gelosissimo di questo disco, fra l'altro, bellezza. Dopo la pubblicità di Pè Enciclopedico, poi avremo Liberi Dentro, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, il grande rock con Angela Zocco e Andrea Gozza, la mattinata dei 103.1 e domattina puntuali andremo in scena con ospiti in diretta. Come l'uso tornerà a trovarci a parlare dei suoi ultimi progetti. Sapete che ogni anno a inizio stagione l'appuntamento con Marco è immancabile, uno degli amici di Radio Città Fujiko e del Breakfast Club. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buonissimo ascolto, soprattutto un buon giovedì, una buona giornata. Mattiniere e mattinieri, l'appuntamento è a domani, mi raccomando, ore 7 con il vostro, il nostro Breakfast Club. E da William Piana, un buon ascolto, una buona giornata. Ciao a tutte, ciao a tutti.